Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei o a quello che i giornali europei scrivono dell'Europa e non solo. E cominciamo da un tema che abbiamo già toccato nelle settimane scorse e che continueremo a toccare un po' come la Brexit, perché finché non ci sarà una risposta definitiva si potranno fare tante illazioni e tanti commenti, a volte appunto mancando poi la sostanza. Però siccome il tema è molto importante e parliamo del TTIP, che viene tradotto con partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, Transatlantic Partnership on Investment and Commerce, che sapete è in discussione tra tutti i negoziatori europei e negoziatori americani, non si ha una bozza ufficiale di quello che c'è sul tavolo dei negoziatori in questo momento, si hanno molte indiscrezioni. Allora, per esempio, la Süddeutsche Zeitung questa settimana torna sul tema e torna anche sulle quelle rivelazioni a cui avevamo accennato settimana scorsa, fatte da Greenpeace su alcune delle questioni che vengono toccate. Il titolo dell'articolo della Süddeutsche Zeitung è: l'Europa non deve cedere su trasparenza e principi. Vi leggo una parte di questo articolo di Alexander Hagelhüken, apparso appunto sul quotidiano tedesco. I promotori del partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti hanno fatto un grosso errore. Forse se ne accorgono solo ora che la bozza dell'accordo è stata rivelata da Greenpeace. L'ossessione di Washington per la segretezza ha proiettato sulle trattative l'ombra di un complotto ai danni degli europei. In effetti, scrive il giornalista tedesco, alcune richieste degli Stati Uniti vanno contro gli interessi dei cittadini dell'Unione, come l'abbandono del principio precauzionale. Se gli europei saranno capaci di difendere alcuni principi essenziali, come la protezione dei consumatori, la sovranità delle norme sanitarie e ambientali e la protezione degli investimenti, allora a quel punto il TTIP potrebbe appunto diventare vantaggioso per i cittadini. Per cui, come abbiamo letto anche su altri commenti nelle settimane scorse, in generale sulla carta il libero commercio, la liberalizzazione del commercio e delle trattative porta vantaggi per tutti, a patto appunto che questo non vada a scapito di alcune regole faticosamente raggiunte e condivise, come quelle per esempio sulla protezione della salute. Sul TTIP vi segnalo anche da Internazionale un articolo invece apparso sul Guardian che è intitolato "Pressioni indebite". Anche qui, come scriveva anche la Süddeutsche Zeitung, è un po' un problema che non ci sia una vera bozza su cui ragionare, ma solo indiscrezioni. Secondo il Guardian, per esempio, una proposta prevede l'obbligo per Bruxelles di informare le aziende statunitensi di ogni legge e di concedere la stessa influenza delle aziende alle aziende americane di quella che hanno le aziende europee nei processi legislativi. Naturalmente, se fosse vero, sarebbe altro che pressione indebita. Comunque vedremo, perché seguiremo la questione, sia se usciranno nuove indiscrezioni, sia se, come è auspicabile, ci sarà una vera e propria bozza pubblicata di questo accordo su cui si sta lavorando. E ricordiamo che una dei desiderata del presidente Obama è di concludere, di far passare questo accordo prima della fine della sua presidenza, che sappiamo è a novembre, anche se poi, come ripetiamo, a novembre ci saranno le elezioni, come poi ripetiamo spesso, l'insediamento vero del nuovo presidente sarà poi in gennaio, quindi Obama ha di fatto ancora fino alla fine dell'anno per chiudere la sua presidenza anche con questa stelletta sulla giacca del TTIP. Passiamo a un'altra questione istituzionale che riguarda la Banca Centrale Europea e il suo governatore, l'italiano Mario Draghi, che come sapete è spessissimo nel mirino dei tedeschi, del ministro delle finanze Schäuble, considerato un po' il falco del governo Merkel, ma anche della Banca Centrale tedesca. E allora sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung il presidente della Banca Centrale francese François Villeroy de Golot ha difeso Mario Draghi dalle critiche dei tedeschi, dicendo: trovo che questo sia molto pericoloso, condivido la cultura tedesca della stabilità, ma c'è un malinteso su cosa sia la stabilità, e anche la personalizzazione delle critiche è a suo modo di vedere eccessiva. Non è la politica monetaria di Mario Draghi, tutti e 25 i membri in consiglio prendono parte al processo decisionale, la personalizzazione della politica monetaria è eccessiva, quando l'inflazione è troppo bassa dobbiamo agire, se non lo facessimo commetteremmo una lesione del nostro mandato. Fa parte della cultura tedesca rispettare le leggi e i trattati ed è esattamente quello che facciamo e chiediamo di fare. Un'altra questione che i giornali hanno molto seguito finché si è trattato poi di avere molti spunti di cronaca, adesso sta già un po' scemando, è quella dell'Austria che vorrebbe in qualche modo blindare il confine del Brennero per difendersi da un eccessivo arrivo di immigrati. In Germania, sapete che in Austria le ultime elezioni hanno visto una ascesa incredibile del partito di centrodestra con successive dimissioni del cancelliere che era invece di un partito di centro. Anche in Germania ci sono partiti di questo tipo, in particolare c'è quello che un cristiano sociale bavarese, Horst Seehofer, che però ha posizioni molto dure e vicine a quelle del partito di estrema destra austriaco. Adesso, secondo i giornali tedeschi, questo quello che viene definito il ribelle bavarese avrebbe trovato un accordo con Berlino per non agitare più lo spettro dell'immigrato cattivo e continuare invece a costruire quella che in Germania era stata battezzata la Willkommenskultur, cioè la cultura dell'accoglienza, che era un po' soprattutto fino a quando a Colonia, ricorderete, nella notte di Capodanno ci sono stati quelle molestie, quegli stupri di massa da parte di immigrati a danno di cittadine tedesche, era un po' il fiore all'occhiello di Angela Merkel, che poi per quel motivo, ma anche per tutti i problemi che ci sono con la Turchia, ha fatto un po' marcia indietro. E ora veniamo a un articolo invece che ho trovato su Le Monde, che è forse dovrebbe un po' inorgoglirci in qualche modo. In Francia si sta diffondendo con grande successo l'MP3, cioè quello scooter italiano a tre ruote che è stato lanciato dalla Piaggio 10 anni fa, che forse insomma c'è stato un periodo in cui lo si vedeva molto anche in Italia, poi in realtà in Italia se ne vedono sempre di meno, però in Francia continua ad avere un certo successo. Addirittura in questo articolo Le Monde auspica che a Parigi, come in tante altre città, insomma, aumenti in tante altre città europee, aumenti l'uso degli scooter a svantaggio ovviamente delle automobili, perché anche Parigi, pur avendo una forma di congestion charge, di tassa per la circolazione nel centro, comunque anche Parigi ha grossissimi problemi di traffico. Un altro importante così legame con l'Italia è un'intervista che ha pubblicato Financial Times al nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che era in visita a Londra, dove ha incontrato gli investitori, ma è andato anche, non so, per dire, nella sede dell'Economist, insomma ha fatto un po' di promozione dell'Italia, delle sue politiche economiche, delle riforme economiche che stiamo facendo anche grazie all'impulso del ministro dell'economia. Sul tema delle banche, che nella City ovviamente è particolarmente sensibile, Padoan ha ribadito in questa intervista a Financial Times l'impegno a colpire le banche dove si provi che hanno venduto investimenti inappropriati alla clientela. Sapete che questa settimana hanno fatto molto scalpore, sono anche state forse interpretate con un pochino di leggerezza le parole del numero uno della Consob, che è l'autorità che dovrebbe vigilare sui mercati e sulla concorrenza e anche sulle banche, Vegas, che aveva anche lui forse un po' incautamente usato delle parole che facevano intendere che insomma la colpa alla fine era degli investitori che non avevano letto con abbastanza attenzione i famosi documenti dove magari i rischi di certi investimenti venivano in effetti descritti. In ogni caso Padoan ha spiegato che banche come Banca Etruria, anche qui non sto a ricordare tutte le polemiche che hanno circondato e stanno continuando a circondare questo salvataggio, appunto che banche come Banca Etruria e altri istituti non avevano chiarito preventivamente ai risparmiatori che le obbligazioni, cosiddette obbligazioni subordinate, erano più rischiose dei depositi. E Padoan ha detto: questo è un problema importante che ha a che fare con il modo col quale le banche esercitano la loro attività, naturalmente in particolare quelle banche di territorio dove c'è un rapporto spesso di fiducia o forse di male intesa fiducia tra chi lavora in banca e i correntisti, che a volte si fidano senza appunto leggere, proprio perché si fidano non leggono tutti questi codicilli e poi in alcuni casi appunto sottoscrivono degli investimenti molto più rischiosi di quello che prevederebbe il loro profilo. Era però l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.